Eccoci qua con un nuovo episodio di Alla Conquista del Gioco, il podcast italiano dedicato ai giochi da tavola e condotto da Claudio e Pietro di Aria Games Forlì. Claudio? Ci troviamo ancora con il 15° episodio. Boh, non lo so, sì, forse il 15, ma non è importante. L'importante è che siamo qui su Radio Big World o sul suo canale SoundCloud di Radio Big World. E siamo qui con voi per parlarvi di giochi da tavolo, questa nuova moda che è esplosa nel mondo nerd, che in realtà sono già una decina d'anni che è esplosa, però ultimamente sta continuando a fiorire sempre più, insomma, sembra sempre in salita e non in declino, e continuano ad uscire tantissimi nuovi titoli che noi proviamo i venerdì sera nella nostra associazione o che spieghiamo nelle aree dimostrative che teniamo in tutta la Ma Romagna. io direi che principalmente questo hobby, comunque chiamiamolo così, riprende più famiglie anche negli ultimi tempi. Ci sono molte famiglie che sono entrate grazie a questo, comunque, anche per i giochi semplici per bambini, poi dopo si passa a giochi un po' più particolari. Sì, se pensiamo che una volta il fiore all'occhiello dei giochi da tavola era un Agricola o Vignos che a una famiglia sono improponibili, adesso i portabandiera sono giochi più simili a Colt Express, che invece sono, nonostante non siano di una semplicità disarmante, tipo gioco da bambino di 4 anni, si adattano a tutta la famiglia. Io direi che basta guardare i vincitori di Spiel des Jahres degli ultimi tempi, come Colt Sì, Express o o Camel Up, nome in codice. o Hanabi, cioè per far capire il tipo di giochi che va più in voga e quindi qual è il pubblico che praticamente è la fetta maggiore in questo tipo di hobby. Sì, in effetti sì, anche perché comunque guardandosi intorno, alla fine gli acquirenti maggiori di giochi da tavola probabilmente in questo periodo sono gli universitari o comunque quella fascia lì di ragazzi giovani che vanno a giocare nei negozi specializzati o nelle associazioni o a casa loro, comunque che cercano giochi più appetibili alla loro età, tipo Colt Express per dire, o giochi con alieni o così via. Più American che Eurogame, mentre gli Eurogame comunque continuano ad avere la loro fetta di mercato, i loro Certamente. giocatori fedeli, Ma ma sai, sì, effettivamente se guardiamo nel mercato ci sono ancora ovviamente gli Eurogames, anche perché sono i grandi autori dei giochi degli Eurogame più famosi che continuano a crearne. Però se guardiamo attentamente negli ultimi tempi abbiamo più giochi americani, grazie sì. probabilmente anche a Kickstarter. Certamente, anzi, soprattutto grazie a Kickstarter, perché probabilmente, anzi, sicuramente, gli editori che puntavano sugli American erano molto meno, o comunque raggiungevano più difficilmente il nostro vecchio continente, mentre adesso con Kickstarter chiunque piccola casa autoprodotta e compagnia bella, anche Tizio Caio a casa loro, possono creare il loro gioco, distribuirlo in tutto il mondo e abbiamo visto che gli American sono quelli che tirano per la maggiore, anche se in realtà quelli che tirano più per la maggiore sono i giochini di carte semplici, munchkinoidi, se vogliamo. Beh, quelli sono giochi più facilmente proponibili a livello di produzione anche, hanno un costo basso, sono semplici, non pretendono una grande grafica e non pretendono nemmeno una grande meccanica di solito. No, in effetti no. Anzi, cioè, sono i classici giochi che progetti in 5 minuti e personalmente non mi piacciono. Ma Comunque, il discorso più che pi piacere o non piacere è che la maggior parte di questi non è necessario perché esistono giochi dello stesso tipo che a volte sono anche migliori a livello di meccanica. Poi dopo dipende anche comunque dai gusti. Cioè, comunque alla fine abbiamo visto che parte del mercato viene presa più che altro per diciamo l'aspetto estetico o i temi, che sono le cose che si basano di più sull'occhio del compratore. tra l'altro c'è una cosa che non abbiamo detto, non abbiamo pensato che comunque potrebbero ascoltarci persone che non sono del settore, che comunque è la prima volta che ci ascoltano, e effettivamente dovremmo spiegare qualche termine. Cosa significa American e cosa significa Eurogame? Molto semplicemente. Allora, gli Eurogame sono i giochi da tavolo che si basano su meccaniche matematiche. Diciamo che il gioco principalmente tende ad avere meno alea possibile, quindi meno fortuna. Ovviamente quasi, quasi sempre c'è quel minimo di fortuna, vuoi che esce questa carta piuttosto che l'altra, ma comunque si cerca di ridurre la fortuna al minimo e mettere tutto nelle mani dell'abilità, del giocatore di gestire le proprie risorse o quello che comunque, gli mette in la meccanica, gli mette in mano la meccanica del gioco. Ad esempio, gli Eurogame sono giochi di gestione, per dire, di raccolta risorse, di vendita, di commercio e di costruzione ferrovie e cose così. Mentre gli American sono giochi più free, diciamo, dove c'è un gran quantitativo di fortuna e si lanciano miriadi di dadi da 6. Esatto, la differenza principalmente sta in uno che è un gioco che si basa principalmente sulla tattica, cioè il gioco, l'Eurogames, mentre l'American si basa principalmente di solito sulla fortuna, sull'interazione, dopo dipende anche dal E gioco. fa del suo punto di forza l'estetica e l'ambientazione, mentre l'Eurogame l'ambientazione è schiaffata a forza per creare una copertina al gioco e la cosa importante è la meccanica. Però se guardiamo bene, negli ultimi tempi si stanno mescolando un po' Sì. questi due mondi, perché basta guardare giochi come Sight, Sì. dove abbiamo le miniature da gioco American, ma abbiamo la meccanica da gioco da gioco Eurogame. Diciamo che sta nascendo un ibrido. Sì, ok. Detto questo, in realtà fino adesso non abbiamo parlato dell'argomento di oggi, stiamo un po' divagando, che e va bene così. Se ci avete ascoltato negli ultimi due episodi, abbiamo parlato delle nostre wishlist, quindi dei giochi che fanno parte della lista dei giochi che vorremmo comprare. Questo perché, no, non tanto per farvi conoscere i nostri gusti, che non penso vi interessi, più che altro per parlarvi di giochi strani, perché nelle nostre wishlist non ci sono Puerto Rico, Colonie di Catan o Ticket to Ride, ma giochi che sono lì perché o sono troppo difficili, cioè troppo, sono più difficili da trovare, o comunque costosi, o Kickstarter, o quindi insomma giochi ricercati, insomma. Quindi questa cosa di parlare alle nostre wishlist è per farvi conoscere giochi che magari non conoscereste in altro modo. Giusto? Sì, anche perché a parte, vabbè, Mansion of Madness e CryEvoke che ho citato in passato, gli altri giochi di cui abbiamo parlato sono abbastanza strani. Parte qualche gioco vintage, gli altri sono tutti particolari o indie. Quindi oggi farei il terzo e ultimo incontro sulle wishlist per poi il prossimo episodio parlare di altro, magari una cosa di cui non abbiamo mai approfondito, i crowdfunding. E quindi facciamo il terzo e ultimo episodio sulle wishlist. Se vi siete persi i due episodi precedenti, li trovate su Radio Big World, nella pagina di Alla Conquista del Gioco. Sono gli episodi 14 e 13. Ok. Parto io e visto vi ho detto fino adesso che nelle nostre wishlist non ci sono giochi facili da trovare e inizio con un gioco che in realtà è facile da trovare perché è stato un best seller e quindi è molto famoso. Ed è probabilmente il gioco contenuto nella mia wishlist che sarà il prossimo che comprerò, anche perché sta per uscire in Italia la sua seconda espansione. Quindi penso che comprerò tutte le espansioni e il gioco base in un blocco. E il gioco è Colonie Imperiali, Imperial Settlers di Ignazi Trezzi, Ignazi, sì. Ignazi, dai, di Ignazi, che abbiamo conosciuto di persona noi di Area Games 2 anni fa a Forlì in Popoli presso la manifestazione Comics Popoli. Sì, Ed è per questo che ci permettiamo di non citare il suo cognome, ma chiamarlo con il esatto. nome. Per questo possiamo chiamarlo per nome, ce l'ha detto lui in polacco. Allora, questo gioco del Buon Ignazi è secondo me bellissimo. Io adoro Colonie Imperiali perché, nonostante sia più tendente all'Eurogames, questa cosa non è così forte. Innanzitutto perché il gioco è asimmetrico, che è una meccanica che adoro, cioè una meccanica, una caratteristica che adoro dei giochi da tavola. Asimmetrico come può essere Caos nel Vecchio Mondo, per dire. Cosa vuol dire asimmetrico? Vuol dire che la fazione che sceglie all'inizio il giocatore ha diverse capacità, diverse potenzialità e quindi a seconda della fazione che sceglie la partita sarà diversa e lui dovrà giocare in modo differente. Un gioco simmetrico, ad esempio, è Risiko, in cui se scegli carri armati neri sei uguale a chi ha scelto i carri armati gialli a livello di caratteristiche. Un gioco appunto famoso e asimmetrico è Caos nel Vecchio Mondo, in cui le varie divinità del caos che usano i giocatori giocano in modo completamente diverso. Anche qui in Colonie Imperiali, nel gioco base, ci sono quattro civiltà: Egizi, Romani, Orientali e Barbari. Che hanno un mazzo loro con cui, in cui hanno degli edifici che possono avere solo loro. In più, nella loro scheda hanno un'abilità che possono avere solo loro e una produzione diversa dagli altri giocatori. Quindi, a seconda della razza scelta, razza, della, vabbè, della cultura, Civiltà. della civiltà scelta, si avrà un modo di giocare diverso perché sarà diversa la produzione che si farà e anche gli edifici che si costruiranno. E parlando del gioco, allora, il gioco, a parte le quattro plance dei giocatori, che sono delle piccole plance, ha un sacco di meeples in legno che rappresentano le risorse e molte carte, un mazzo di carte comuni e di edifici comuni e un mazzo per ogni civiltà. I giocatori semplicemente nei turni che compongono il gioco, devono riuscire a gestire meglio la loro produzione e fare più cose possibili, perché il gioco è un I go to go quasi, mi viene da dire. Cioè, ogni giocatore fa un'azione, poi passa al giocatore successivo, si fa il giro e si va avanti così finché tutti i giocatori non hanno passato. A quel punto finisce l'era. Quindi, mentre un giocatore che gestisce meglio le proprie risorse riesce a fare 20 azioni in un turno, un altro ne può fare anche solo 3. E in queste azioni si va a costruire edifici, a produrre risorse, a spendere risorse, a creare contratti e così via. Questo perché nel gioco le carte hanno più valori. Allora, gli edifici che andiamo a pescare possono essere costruiti come l'edificio stesso, essere razziati dalla mano, quindi invece che essere giocati in campo vengono direttamente distrutti utilizzando la risorsa della spada e ci danno risorse premio per la razzia, oppure trasformati in un contratto commerciale utilizzando un'altra risorsa che è il cibo e che in questo modo vanno ad ampliare la nostra produzione di misto turno. Quindi il gioco in realtà è semplicissimo e velocissimo. Va a simulare quei giochi, anche nella grafica, quei giochi online, quei browser game di gestione civiltà come il famoso Travian. Allora, io adoro questo gioco. L'unica cosa è che le tantissime meeples, i tantissimi meeples che rappresentano le risorse creano all'inizio partita una gran confusione in mezzo al tavolo e o si perde qualche minuto per dividerli in modo sensato, altrimenti ci si ritrova con questa mucchia di meeples al centro del tavolo. Sì, adesso non lo vedo così problematico. Se tu hai citato un gioco come era prima Caos nel Vecchio Mondo, anche lì puoi avere lo stesso problema, ma basta avere qualche ciotolina per dividere. No, vabbè, non dico che è un problema terribile, però dico l'unica cosa è che questi meeples conviene dividerli in varie ziplock o comunque in qualche modo, perché se si mette tutti nello stesso sacchetto ci si ritrova questa piramide con 6 risorse diverse. Sì, guarda, puoi fare anche così, dopo dipende se nella scatola il gioco riesce comunque a chiudersi, però di solito io sono abituato, poi anche perché è una cosa che creo io di solito. Quando un giocatore, e io sono presente al tavolo, tira giù dal sacchetto tutti i token diversi, mentre spiega il gioco, magari qualcuno che al tavolo non lo conosce, io ordino tutto perché è una cosa che faccio io di mia iniziativa perché mi diverte. Dopo sì, dipende anche da te. Però se ci sono io al tavolo non c'è bisogno, te li divido io perché lo faccio di abitudine. Ok, va bene. Comunque no, non è che il gioco è orribile per questa cosa. Dico soltanto, l'unica No, no. cosa è che bisogna tenere ordine le risorse perché ce ne sono veramente tante e si crea una gran confusione. Sì, e per quello basta comunque perché trovarsi delle ciotoline che sono molto pratiche e utili soprattutto per gli ultimi giochi a tavola che escono ultimamente, da consigliare sicuramente a voi aspiranti giocatori. Sono molto utili per dividere. Servono praticamente sempre. Ok, scusami. Niente. Allora, invece parlando delle espansioni, brevemente parlo delle due che conosco. Allora, l'espansione Why Can't We Be Friend, che è una mini espansione perché non possiamo essere amici, che in realtà è un piccolo mazzo di carte da aggiungere al gioco, aggiunge molti edifici di fazione molto belli che aumentano la rigiocabilità del gioco perché dopo un po' di partite gli edifici di fazione si conoscono tutti. E un nuovo tipo di carte che però in questa espansione non viene sfruttato molto perché ce n'è una sola, e sono le carte evento, che sono carte che si possono tenere in mano e utilizzare contro gli altri giocatori in un certo punto della partita. In questa espansione c'è soltanto il vulcano, ce n'è uno solo, quindi non è molto sfruttata questa meccanica introdotta. Mentre l'espansione grande, che è uscita in Italia per ora, è gli Atlanti Dei. E aggiunge la quinta fazione, quindi il gioco innanzitutto arriva a essere da 5 e c'è questa nuova fazione e una nuova risorsa che è la magia, se non sbaglio. Dovrebbe Ah, non so. essere, sì, la magia. Ok. Comunque in Italia non so come l'hanno tradotta, però dovrebbe essere quella. Poi c'è un'altra mini espansione che è annunciata in Italia per febbraio, quindi adesso, che è Three is a Magic Number. E Se questa è una molto italiana, va bene, in realtà no. E un'altra espansione grande che è Aztechi, anche questa annunciata a breve, sempre dall'editore italiano del gioco che è Pendragon. E Aztechi aggiunge una nuova fazione ancora, che sono gli Aztechi, e una nuova risorsa che è la religione. Però attenzione, la fazione aggiuntiva significa che hai anche un giocatore in più o semplicemente puoi sceglierne una diversa? No, puoi scegliere una diversa. Il gioco rimane da 1 a, allora, da 1 a 5 se c'è anche Atlantide. Ok. Se hai mischiato anche l'altra espansione, altrimenti è da 1 a 4. Ho capito. Quindi comprando il gioco base e Aztechi, il gioco rimane da 4. Mentre per farlo arrivare a 5 giocatori bisogna comprare l'espansione Atlantidei. Ok, tra l'altro tra le promo di Imperial Settlers c'è anche la taverna di Dice Tower. Ah, ok, sì. Vabbè. Ok, tutto qui, Claudio puoi andare. Giusto, un'ultima cosa. Imperial Settlers è edito in Italia da Pendragon. È molto facile a trovare nei negozi perché Pendragon ha un'ottima distribuzione. Il prezzo dovrebbe essere sui 40 euro per il gioco base, adesso vado a memoria. 11-12 euro le espansioni piccole e sulla trentina le espansioni grandi. Ok, allora, prima di iniziare vorrei dire una cosa. Abbiamo parlato un casino di Bruno Catala nei nostri episodi, sempre di giochi di Bruno Catala, perché ultimamente lui e Eric Lang, che è il creatore di Blood Rage, per dire, hanno iniziato a fare un sacco di giochi negli ultimi tempi, che sono dei bei giochi, però ne stanno facendo veramente tanti. Giusto? Sì, sono tra gli autori più prolifici, credo. E quindi per curiosità sono andato su Board Game Geek, che è il sito più grande americano, dove, diciamo, che raggruppa tutti i giochi da tavola, mette dei voti, le immagini, i video, le recensioni. Perché ho il mio account per vedere quanti giochi nella mia collezione di Bruno Catala, per fare prima se non va bene a guardare uno per uno nelle scatole. E non ne ho tanti, ne ho tipo 3 o 4, però molti dei suoi giochi mi piacciono comunque perché ce li hanno anche altri nostri amici. E quindi questo gioco della wishlist mi ha sorpreso perché non aspettavo che fosse sempre suo, invece è un altro gioco di Bruno Catala, che è un gioco che è da tanto tempo nella mia wishlist e l'avevo messo perché mi interessava, non per l'autore, ma a quanto pare c'è sempre lui, insieme a Christian Martinez questa volta. E il gioco si chiama Istrio. È un gioco con una grafica veramente bella. Animali in stile vittoriano, animali antropomorfi, quindi uomini volpe, uomini tartaruga. È un gioco per famiglie fino a 5 giocatori. È di bluff, gestione della mano, azioni simultanee, dove praticamente ogni giocatore selezionerà un colore, avrà un numero di segnalini del suo colore tramite miniature che possono essere o i simboli del gioco, che sono quelli che usi quando prenoti delle carte, oppure dei galli, che sono praticamente, diciamo, i tuoi attori. Perché questo gioco è molto particolare. All'interno ha un palco da montare, un palcoscenico, con due statistiche in alto. Perché la trama del gioco è intrattenere il re di questo mondo. Solo che il re di questo mondo cambia spesso umore. A volte vuole vedere delle tragedie, però può cambiare idea da un momento all'altro, dopo vuole vedere una commedia. Quindi in questo gioco noi dobbiamo cercare di gestire l'umore del re per fare più punti, perché potremo preparare il palco con grandi attori da drammi e carte che sceneggiatura da drammi, ma poi magari prima che finisca il turno cambia idea e vuole vedere una commedia, e dopo diciamo che non ci darà punti perché stiamo facendo tutto il contrario. Quindi è un gioco molto particolare sia nella sua meccanica sia nel suo tema. E per simulare questa cosa, del fatto del cambio di umore, tu metterai questi galli in miniatura sopra al palco, e quando il re cambia umore c'è praticamente una levetta in cima al palco che se tu la giri, il centro dell'immagine del palco e tiri giù tutti gli attori. Perché Apre non gli piace più questo, voglio vedere qualcos'altro. la botola, li fa cadere tutti. Praticamente sì, li scansa via dal palco e cambia praticamente scenografia. È molto semplice, praticamente ci sono delle gran carte con dei simboli e degli effetti scritti sopra. Il gioco non penso esista in italiano, ma si può trovare, cioè si può comprare in Italia tramite vari siti, in inglese ovviamente. E adesso lo guardai tanto tempo fa, non ricordo perfettamente le regole, ma mi ricordo che era molto semplice e divertente. Cioè si basa nel tuo turno selezionare carte per poi ottenerle, che possono essere attori di varie tipologie che hanno un numero di popolarità, oppure degli eventi che puoi giocare per scambiare cose, per cambiare umore al re, cose del genere. Mi pare che non fosse neanche troppo lungo, probabilmente un gioco da mezz'ora e 40 minuti. E come al solito il punto per cui ancora non fa parte della mia collezione non è perché il gioco non è in italiano, ma è per il suo prezzo che mi sembra un pochino elevato per quello che è. Se questo gioco potrebbe sembrare un gioco da 30 euro perché è un gioco di media grandezza, in realtà lo troviamo sui 40. E lo so, sarò io che sono un po' tirchio, ma 10 euro in più io li sento. Quindi per adesso rimane ancora nella wishlist. Sì, Però costa sicuramente è 40. molto interessante, andate a guardarvi le illustrazioni che sono molto belle. E niente, questo era Istrio. Tra l'altro l'editore è Bombix, che in Italia solitamente viene distribuito da Asterion, quindi può darsi che, essendo del 2016, può darsi che Asterion quest'anno annunci l'edizione italiana. Di Ah, probabilmente potrebbe uscire effettivamente. Dopo in quel caso solito sì. è Asterion che distribuisce i giochi della Bombix. Se non sbaglio anche coso Abyss è Bombix. Bene, bene. Ok, Prego. tocca a me. Allora io porto un gioco che ha tanti anni ma è ancora in circolazione ed è di Ed è un tipo Bruno nome, Catala? no, è di un Ok. nome ancora più altisonante di Bruno Catala ed è, Eric Lang. no, Reiner è Knizia. Reiner Knizia, è il buon Reiner, il papà dei board game praticamente. È un classico di Knizia degli anni 90 ed è Formula Motor Racing. Un gioco che ho avuto l'occasione di giocare solo una volta e da allora lo voglio comprare a tutti i costi perché è fantastico. Allora, Formula Motor Racing è questo piccolo giochino di corse di Formula 1, molto bello perché si basa sul bluff e dedurre chi sono gli altri giocatori. Praticamente, a inizio partita, viene disposta sul percorso, diciamo, la fila delle macchinine del gioco. Ci sono sei colori e ogni colore ha due macchinine. Vengono disposti in maniera casuale e quindi ci sarà un ordine. Ogni giocatore riceve una carta che gli dice qual è il suo colore, quindi ogni giocatore sa chi è, ma gli altri non lo sanno. A quel punto tu devi cercare di mandare più avanti possibile le tue macchinine prima della fine della partita, ma senza essere troppo evidente, perché altrimenti gli altri giocatori usano la carta fuori strada e ti fanno fuori la macchinina. Quindi sostanzialmente è un gioco di bluff in cui bisogna cercare di non far capire chi sei e come si fa ad avanzare senza far capire chi sei, con la regola della scia. Praticamente in mano i giocatori avranno queste carte, alcune fanno andare avanti, alcune fanno tornare indietro, altre fanno uscire fuori strada delle macchine. E quando tu fai andare avanti una macchina, quella che ti pare, Contemporaneamente anche la macchina dietro la segue grazie alla sua scia, quindi se una macchina va avanti di 3, anche quella dietro va avanti di 3 e magari la tua è quella dietro che è stata portata dalla scia, sperando che gli altri pensino che, tu, che la tua sia quella che hai mosso utilizzando la carta e l'altra te la sei portata dietro soltanto perché le regole vogliono così. Insomma, il gioco è tutto qui, semplicemente resistere fino alla fine della corsa con le tue due macchine, perché cercando di non farle capire agli altri, non fartele buttare fuori, e cercando di ottenere le posizioni migliori nella fila delle macchinine. Io questo gioco, l'idea di questo gioco mi piace da morire, è veramente divertentissimo. In più dura una sciocchezza, dura 15 minuti. Sì, sembra molto interessante. E l'unica cosa, l'unico problema è che in questo momento il gioco dovrebbe essere edito soltanto dalla GMT, dalla americana GMT, quindi essendo di una ditta americana il prezzo europeo è leggermente altino, non parliamo di un prezzo mostruoso, però per un gioco così piccolo con così pochi componenti costa 25, mi sembra. Perché dentro ci sono veramente un numero ridicolo di carte e un dado da 12, mi sembra, e 16 macchine. No, 12 Non c'è macchinine. una plancia o qualcosina, no? No. Beh, ricordo che anche Gravwell, più o meno, che costa mi sa anche sui 30, non ha molta componentistica in più, ha una plancia, 4 miniature tipo e 30 carte. Ah no, invece la plancia c'è. Hai visto? Almeno no, dipende dall'edizione, perché l'edizione che giocai io non l'aveva. Giocavamo direttamente sul tavolo, però vedo su Board Game Geek che alcune edizioni ce l'hanno, perché comunque questo gioco di edizioni dal 95 ad oggi ne ha avute un casino. E ok, secondo me questo è un giochino bellissimo da area demo, perfetto per giocare con i bambini, è fantastico. Infatti il Buon Knistia, Sì. io sono uno degli stimatori del Buon Knistia, secondo me non sbaglia mai. Ma sì, noi vogliamo male noi a No, gli Knistia, anche vogliamo perché bene a lui ci Reiner. aiuta, cioè comunque sui giochi, noi siamo degli ispiratori di giochi a tavola, quindi anche se fa giochi per bambini a noi va benissimo. Anzi, prima o poi spero che la nostra associazione riesca a portare in una fiera il Buon Knistia, perché voglio fargli autografare qualcosa. Ah, io forse ho il gioco di Beowulf, io di Knistia ho rimasto, basta. Ce l'hai, il Signore degli Anelli, ce l'hai tu. Ok. Va bene, prossimo gioco. Non è di Bruno Catala, non è di Eric Lang, non è di Knistia, l'autore probabilmente è quasi sconosciuto perché è un Kickstarter, quindi probabilmente sarà il suo unico gioco. Allora, questo è un gioco del genere cooperativo che mi ha ricordato un pochino un misto tra Mansion of Madness e Last Night on Earth, che è uno dei miei cooperativi che mi piace più giocare di solito, anche se lo gioco molto raramente. Ed è sempre a tema zombie, si chiama Dark Dark Darkest. Ok. Yes. Allora, ha tanti punti positivi, ma anche tanti punti negativi questo gioco. Il primo punto negativo è che è un Kickstarter. E no, non è che tutti i Kickstarter sono negativi, però la maggior parte di essi, come questo, sono poco beta testati. Cosa significa? Che il gioco esce, che non sono state fissate delle regole, quindi ci sono tanti errori. Già. E in questo gioco, che è uscito in due edizioni, la prima edizione era un buco nero di errori. Mi ricorda qualcosa, mi ricorda uno studio Smeraldo. Sì, o anche 12 Realms, comunque giochi usciti sul mercato che hanno dei problemi ancora. Giusto? Sì, purtroppo sì. Cioè, lo studio Smeraldo, scusa, ti interrompo un attimo, giusto per dire, quando finì il Kickstarter, il creatore del gioco, Wallace, Martin Wallace, disse: il gioco non è stato testato abbastanza, ve lo dico, è buggato e la vostra edizione Kickstarter sarà buggata. Così è stato, e quando gli editori hanno dovuto fare l'edizione retail del gioco, è stata ribeta testata, il regolamento è stato riscritto. Quindi l'edizione Kickstarter è diversa dall'edizione da negozio. Quindi diciamo che chi ha fatto il Kickstarter se l'è un po', si è ritrovato un po' preso in giro. Sì, anche perché comunque una persona che fa un Kickstarter dando i suoi soldi, non è perché vuole avere il gioco prima, è che vuole avere delle esclusive principalmente, che sicuramente avrà avuto, però se ti trovi un mezzo gioco mentre sul mercato trovi il gioco che è stato ribilanciato, è un po' una presa in giro. Sì, è come chi ha fatto il Kickstarter di Alien vs Predator della Prodos Game, che ha visto il gioco uscire nei negozi e la sua copia Kickstarter non è ancora arrivata. Ma parleremo in futuro di questi casi, adesso andiamo Sì, avanti, sì. tranquilli. Allora, e quindi un problema già iniziale di questo gioco è stato questo qui. Però adesso si trova la seconda edizione dove sono stati corretti gli errori. Però la prima edizione, purtroppo, per gli sventurati che hanno fatto il Kickstarter, è andata così. E infatti la prima edizione viene svenduta dappertutto, ma non lo vuole nessuno. Poi, secondo problema, il regolamento. Il regolamento è scritto malissimo. Se nella prima edizione mancava metà del regolamento, nella seconda edizione è scritto ancora peggio. Vai. Quindi l'unico modo per giocare correttamente il gioco è scaricarsi un regolamento riscritto da un fan che ha corretto tutti gli errori che c'erano in mezzo e che funziona a quanto pare da quello che dice la community. Quindi bisogna scaricarsi un file e poi stamparselo nel caso. Quindi abbiamo un problema anche di regolamento. Terza cosa che vale per me e probabilmente per altri appassionati di miniature, la qualità delle miniature è abbastanza spicciola. Non sono bellissime, non sono neanche brutte, però sono molto generiche le miniature e hanno delle pose molto statiche. E per un gioco che ha un costo di 60-70 euro non ne vale la pena se devi trovarti delle miniature del genere, oltre a trovarti un regolamento da scaricare in questo caso. Questi sono tanti motivi perché questo è rimasto nella wishlist e potrebbe anche andarsene forse, poi vedremo. Non si sa mai. Verso da zombie. Però quali sono i lati positivi del gioco? È molto difficile. Ci sono tante cose da fare nel turno. C'è questa meccanica particolare dove praticamente questi sopravvissuti che noi giocheremo hanno un tot di tempo per trovare dei codici e aprire delle stanze in questa enorme casa. Perché devono trovare praticamente lo studio di questo scienziato che ha creato il virus e prendere l'antidoto, mi pare, e scappare. Però c'è un problema: in queste stanze ci sono delle telecamere perché lui li potrebbe trovare. E se le telecamere riescono a trovarti, fanno generare dei zombie. E in questo gioco i zombie sono fortissimi: bisogna cercare il più possibile di non incrociarli perché ti bloccano, fai veramente fatica a ucciderli. E appena ne esce una nuova orda, probabilmente hanno perso tutti la partita. In più c'è quindi questa sorta di minigioco per aprire le porte e dove devi trovare delle combinazioni. E quando arrivi alla stanza dello scienziato, scatta una fase finale di gioco che cambia un po' il regolamento e genera un boss casuale che può uscire da un mazzo di carte, che anche a seconda del boss, quindi cambia come questo si comporterà. E in più c'è questa meccanica a contagio che se tu vieni contagiato durante la partita, ogni turno che passerà perderai abilità fino a diventare uno zombie. Quindi hai anche un tot di tempo per dopo curarti. E quindi ha varie meccaniche interessanti, soprattutto anche quando combatti mostri che hanno vari punti deboli e ti indica quanto devi, che numeri devi arrivare per colpire un certo punto del mostro, che gli darà certi malus, tipo se gli attacchi la gamba, cose del genere. Quindi ha tante belle idee. Il problema è il risultato che è stato probabilmente troppo veloce. E troppo, probabilmente anche. Cioè, hanno pensato le cose troppo in grande, ma alla fine è uscito quello che è, anche perché con le miniature non si sono impegnati tanto. Più che altro vedendo le foto sembra il materiale delle miniature che se non sia un granché piuttosto che la qualità della scultura che non è malvagia. Però guarda anche le pose, sono molto statiche. Se tu guardi i giochi degli ultimi tempi, comunque sono molto più dinamiche le miniature. Comunque questo qui è un gioco del 2013, però è sicuramente perché è un Kickstarter e quindi per evitare di spendere troppi soldi sono state fatte delle miniature un po' meno di lusso, diciamo. Vabbè. Il gioco non è apprezzatissimo, per tutti i vari problemi che ha e quindi è comprensibile. Diciamo che bisogna fare un po' di lavoro per giocarlo per bene. E quindi questo qui si vedrà. Questo era Dark Dark Darkest. Che si può trovare anche questo in Italia in inglese. 70 euro. Eh sì. C'è l'edizione inglese, tedesco, francese. L'italiano è stato proprio bypassato. Bene. Ok, Bene, porto l'ultimo gioco per oggi e poi dopo vediamo cos'è questa cosa. Sì, dopo ne faccio uno ultimo veloce, proprio velocissimo, e poi chiudiamo, dai. E anche il mio è un Kickstarter, tra l'altro un Kickstarter in corso che in tutta la mia vita a sto punto, diciamo, da quando ci sono i crowdfunding che sono mainstream, quindi Indiegogo, Kickstarter, Apple, quello che volete. Non ho mai, mai avuto la tentazione di fare un pledge in un Kickstarter, mai avuto la tentazione. Questo gioco da tavola, non lo so, mi ha preso. Sono quasi tentato, ma non lo farò. Perché non è ancora uscito, cioè c'è adesso il Kickstarter, dici? Sì, ma tanto non lo farò perché aspetto, cioè non ho così fretta, anche perché comunque chi lo prende lo avrà a dicembre, verrà spedito a dicembre, quindi arriverà a gennaio contando i È problemi. per caso un gioco di Eric Lang? No, Ah, non è Rising Sun, no, ok. è The Shared Dream. Dovresti saperlo, credo, te l'ho già detto. Vabbè, magari ti veniva voglia di comprare anche Rising Sun, anche se lo compreranno molti dei nostri soci, quindi non è necessario, perché lo Sì. porteranno Vabbè, loro. non, ne parleremo poi di Rising Sun, Sì. visto che quando. No, neanche. Tra qualche episodio sarà live il Kickstarter di Rising Sun. Allora, Shared Dream, dicevamo, cos'è? È un cooperativo da 1 a 4 giocatori, dove praticamente i giocatori rappresentano degli anima, ovvero delle persone che sono in grado di rendere reali i loro sogni. E i giocatori devono cooperare per vincere questi scenari che vedranno appunto gli anima combattere contro le tenebre, contro gli incubi che anche essi sono diventati reali grazie a un Nemesis. Praticamente, mentre i giocatori utilizzando il loro potere di rendere reali i sogni possono diventare degli avatar, quindi ad esempio il supereroe o il cyber poliziotto. Dagli incubi è uscito anche un super cattivo che cercherà di portare l'oscurità nel mondo reale. E quindi questo cooperativo horror, di base horror e narrativo, mi ispira tantissimo. Allora, innanzitutto mi piace un sacco l'idea. Poi la parte narrativa, perché i giocatori avranno delle mini storie, quindi come ci insegna. Non mi viene. Dado Winter, ecco. Ogni giocatore avrà i suoi obiettivi personali da risolvere, oltre allo scenario per vincere la partita. In più, i tiles della città mi piacciono tantissimo perché mi ricordano uno dei miei giochi preferiti, che è Silent Hill. Infatti, la città che andremo ad esplorare Lasciare venti. è. No, non è Silent Hill, però a livello grafico mi piace molto. Per il resto il gioco ha anche delle miniature, Sì, quelle sono belle. sono molto belle, sì, però quelle che mi piacciono di più sono i Nemesis, tra cui c'è anche il Killer Clown che lo adoro, mi ricorda tantissimo, cioè non d'aspetto, ma il concetto mi ricorda così tanto Pennywise, che lo adoro, mentre l'altro, il Super Villain, richiama un po' Pyramid Head di Silent Hill, ma poco, cioè in realtà solo alla lontana. E quindi niente, il gioco è questo cooperativo horror con quest'idea di ambientazione molto carina, secondo me. Sì, è molto interessante. Hanno preso qualcosa che ancora non è stato fatto e probabilmente l'hanno fatto anche bene. Ecco, è questo il fatto, finalmente qualcosa di nuovo, almeno sembra. Il gioco base costa 65 dollari, più le spese di spedizione. Solo che, come dicevo, il Kickstarter adesso che stiamo registrando è a 22 giorni, ancora 22 giorni, quindi quando l'episodio andrà in onda saranno poco meno, ci sarà Nel ancora prossimo tempo. episodio annuncerai che hai fatto da baker e hai dato dei soldi per questo No, gioco. non succederà mai. Comunque è già riuscito a raggiungere la quota, volevano 30.000 dollari, ne hanno già fatti 53.000, quasi 600 persone in questo momento. E solo che appunto il gioco verrà spedito a dicembre 2017, quindi no grazie, io non anticipo 65 dollari e aspetto dicembre, no no no, aspetto i negozi, perché tanto comunque abbiamo visto che se i giochi sono di qualità poi comunque vengono distribuiti e arrivano nei negozi, solo i giochi che sono sono veramente indie o comunque hanno qualche problematica, non arrivano poi nei negozi. Perfetto. Ok, Claudio, puoi parlare del tuo ultimo gioco e Sì, poi. andiamo velocemente. È sempre un gioco di Dottor Knizia. È un Oh. giochino da 20 euro, mi pare che costi. Beh, Engard del 93. Ah, sì, È conosco. un giochino facilissimo da due, dove hai una plancia e due nobili che stanno facendo un duello. Quindi hai queste due miniature di piombo praticamente, con la spadina, e semplicemente hai una mano di carte che indica la distanza del tuo affondo, e se hai un tot di punti che dovrai fare per sconfiggere l'avversario. Quindi, a seconda del numero che giochi e nel momento in cui lo giochi, puoi avvantaggiarti nell'affondo di questo duello. Niente, semplicemente la rappresentazione di un semplicissimo duello, però mi sembrava simpatico. Mi piacciono i giochi da due, anche quelli più ignoranti o semplici. Questo non è ignorantissimo, però è sicuramente un gioco molto semplice. E vedo che qualcuno addirittura ha creato la versione in cartone Sì. dello Tra sfondo del duello. Molto, molto carino. l'altro esiste anche l'edizione Travel da viaggio di Engard, Sì. che è un gioco che costa una ventina di euro della Ferti, dovrebbe essere l'ultima edizione, e ricorda anche un pochino un altro gioco di Knizia, che è Il Signore degli Anelli, il duello, dove appunto ci sono Gandalf e il Balrog che vanno a spingersi, combattono e si spingono fuori dal ponte di Moria. Ok. Cioè, in realtà non dico che è lo stesso gioco, però il concetto è quello, un duello dove ci si spinge da un lato piuttosto che dall'altro. Questo Va bene. però è un Abbiamo classico finito. di Knizia del 93, più vecchio anche di Formula Motor Racing. Va Sì. bene, allora, quindi direi che con le wishlist chiudiamo qui, perché tre episodi sono tanti e quindi basta, dai. Parlando d'altro, prossimo episodio forse parleremo dei crowdfunding, adesso vediamo se abbiamo abbastanza materiale. Ah, che cosa interessante che ho visto. Ho trovato una cosa interessante per il prossimo episodio. Quindi non la dirai in diretta. No, te la dico a te dopo privatamente. Invece, parlando della nostra associazione, allora, Area Games Forlì, per chi non la conosce, siamo un'associazione del Forlivese che si occupa di gestire aree ludiche nelle manifestazioni della zona e non anche, visto che tra poco debutteremo fuori zona, anzi abbiamo già debuttato, visto che abbiamo un nostro collega ha già fatto a Taranto un'area demo che ha avuto moltissimo successo. E allora, parlando di Area Games, volevo dire che finalmente possiamo darvi il nostro prossimo appuntamento, il nostro prossimo evento, che sarà il 18 e il 19 febbraio a Rovigo, esatto, fu fuori Romagna, siamo in Veneto. Saremo alla Fiera dell'Elettronica di Rovigo, dove gestiremo in totale autonomia una nostra area demo molto grande, con 10 dimostratori e decine di titoli. Quindi se siete ascoltatori del Veneto, venite a trovarci a Rovigo, sia sabato che domenica presso la fiera in cui si svolgerà la fiera dell'elettronica. Portateci un Carnival Zombie che ce lo giochiamo proprio ambientato proprio in Veneto, dove va giocato quel gioco. Vabbè, c'è anche Ezequeo, Sì. Incognito. Poi, me mentre potete venirci a trovare tutti i venerdì sera presso la nostra associazione Area Games, in quel del President Park in Viale Roma a Forlì, praticamente in zona Ronco. Adesso il numero civico non ricordo, però è in fondo a Viale Roma, prima del cinema. Tutti i venerdì sera dalle 9 fino alle 2 di notte potete venire a giocare con noi e anche senza preavviso qualcosa da fare ve lo troviamo. Ok, per il resto niente, diciamo che se volete lasciarci le vostre impressioni potete commentare il podcast nella pagina ufficiale su Radio Big World, nella pagina del sito radiobigworld.com, c'è cioè lo spazio commenti in basso, e se volete condividerlo con amici, parenti o chi volete voi, ci fate un favore perché più siamo meglio è. giusto? Ah, sì. Sì, va bene, ok. Direi che anche per questa settimana possiamo salutarci qui, allora. Bene. Già. Salut. Ah, ok. Grazie di tutto, amici ascoltatori. Ciao e alla prossima. Arrivederci.